alle corse, all'uscita del cinema, ha imparato che forse il tempo se ne va. E non gli sembra il caso di essere esigente, ama troppo il sole e poco la città. Sulle strade deserte cerca pace nell'anima, al contatto diretto con la libertà. Ma non gli fa paura come a tutti gli altri, ha paura solo del silenzio. Guardala ancora in faccia e facci l'amore prima del viaggio. Segui la strada deserta che punta veloce fin dove è l'alba, veloce fin dove è un nuovo giorno. Vivi ogni attimo, portalo fino alle nuvole, nelle tempeste l'inverno ti proteggerà. Ci ha insegnato a crescere dentro di noi, ma chi ti ha chiesto in quegli attimi in cui tutto perde un senso, figlio del tramonto, delle incomprensioni e degli amori vergini. Ci ha insegnato a chiedere perdono a Dio, a sentirmi meno solo, senza gente intorno.